Io sperai di esser tra quelli che camminano le vie ribelli, stelle di stelle, sudici eroi. Quei cialtroni degli artisti, scopatori, pederasti, tristi, incantatori, aquilonisti, egoisti. Quelli che qualcuno cresce al riparo dalla realtà, fuori dai guai, senza un'età. Soli, quelli che son tutto e niente, che non vivono mai veramente, ma neanche poi muoiono mai. In che parole fuggirò, polvere e sere corse via dentro un bicchiere, clessidra che butto giù come un timbro dolce e agro. Si staccò da quel suo corpo magro e un fumo blu la carezzò. Stanco jazz nello sgabello, madre il suo microfono cullò e ci soffiò suoni d'uccello. Nelle pieghe delle mani strinse il tempo con monotonia, sempre così fu questa mia storia. Spinse tutto il fiato in gola e una lunga ruvida parola, e il mondo lì sotto di noi. Anche le stelle bruciate lassù viaggiano per l'eternità a illuderci negli occhi che per sempre c'è una luce su chi non sa più cantare. Anche le stelle bruciate lassù dal palco scesero a popolare i sogni della gente. Si spense il viso, il suo sorriso e la voce.